24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano sempre la crisi greca che è tornata a spaventare il vecchio continente. Clamoroso incidente diplomatico venerdì in seno alla Commissione europea. Il titolare al commercio De Gucht parla in un'intervista di un piano continentale per l'uscita della Grecia dall'euro. Il collega Ren lo smentisce pubblicamente. Di Grecia si parla questo weekend anche al G8. Infine, una fine settimana dedicato ai musei in Europa e nel mondo. Ancora alta tensione sulla Grecia. Le dichiarazioni del commissario europeo al commercio Karel De Gucht sull'esistenza di un piano di emergenza in caso di uscita di Atene dall'euro hanno sollevato reazioni e forti polemiche. Il responsabile agli affari economico-finanziari Olli Rehn ha dichiarato all'emittente britannica Channel 4 che la commissione non lavora su uno scenario di uscita della Grecia dall'euro. Rehn ha così smentito, senza giri di parole, il collega. Stiamo lavorando sulla base di uno scenario che prevede che la Grecia resti nell'euro. Non commentiamo su vicende speculative, ha affermato. La stessa commissione aveva in precedenza ricordato che Bruxelles smentisce ufficialmente e fermamente quanto dichiarato dal commissario De Gucht in un'intervista al quotidiano fiammingo De Standard. De Gucht aveva affermato che sia nella Commissione europea sia nella BCE ci sono servizi che stanno lavorando sugli scenari d'emergenza nel caso in cui la Grecia fallisca. Questo non ha impedito però che nuove voci preoccupate giungessero da Berlino. Il governo tedesco ha il compito di prepararsi a una possibile uscita della Grecia dall'eurozona, secondo il portavoce del Ministero delle Finanze Silke Bruns. La cancelliera Angela Merkel ha avuto una consultazione telefonica con il presidente ellenico Karolos Papoulias. E che la tensione sia alta lo confermano pure le dichiarazioni dell'ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet, secondo il quale in caso di inadempienza di un paese alle raccomandazioni della Commissione e del Consiglio europeo dovrebbe scattare un governo federale d'emergenza, pronto a prendere le redini della situazione. Un vero e proprio commissariamento. Il momento è talmente confuso che è spuntata anche la notizia che la De La Rue, azienda britannica che produce banconote per oltre 150 paesi nel mondo, si starebbe preparando per l'eventuale ristampa delle dracme. Intanto l'astro nascente della sinistra greca, Alexis Tsipras, afferma di credere che l'Europa non taglierà i fondi alla Grecia, ma se lo dovesse fare, Atene smetterebbe di pagare i suoi debiti. Un collasso finanziario ellenico travolgerebbe tutta la zona euro, ha sottolineato il leader della sinistra radicale. Invece, a suo giudizio, l'Europa dovrebbe prendere in maggiore considerazione una politica che rilanci la crescita per arrestare la recessione del paese e affrontare una crescente crisi umanitaria. Così Tsipras in un'intervista al Wall Street Journal. La crisi greca approda anche al G8, in programma nel weekend negli Stati Uniti. Questo G8 avviene in un momento in cui la situazione finanziaria ed economica mondiale ed europea è molto complicata, lo sappiamo tutti, dalla Grecia e per le implicazioni più vaste. Così il premier Mario Monti, sentiamolo. Questo G8 avviene in un momento in cui la situazione finanziaria ed economica mondiale ed europea è molto complicata, lo sappiamo tutti, dalla Grecia per le implicazioni più vaste. È un'occasione quindi doppiamente importante questo G8. Vengo a rappresentare un'Italia con le carte in regola, che quindi ha le sue posizioni da esprimere con forza nel quadro europeo, perché ci sia a livello mondiale e a livello europeo una crescita molto più vigorosa, il che consentirà anche di mantenere nel tempo gli equilibri di bilancio pubblico che l'Italia per prima con tanta fatica ha raggiunto e intende mantenere, però in un quadro di crescita. Mi pare da un punto di vista concettuale qualcosa di molto chiaro da qualche tempo. Occorre vedere quali conseguenze se ne traggono. Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se crescita e rigore debbano andare di pari passo, come emerso dal vertice di leader europei che partecipano al G8. I tagli di rating sulla Grecia da parte di Fitch e sulle banche spagnole arrivati da Moody's non fanno sbandare le borse europee, che comunque chiudono negative con l'eccezione paradossalmente proprio di Madrid, più 0,44%. Atene spicca più 2,5%, Londra, la peggiore, lascia sul terreno oltre l'1%, mentre Piazza Affari cede un limitato 0,3%. Nel FTSE MIB, dove a essere penalizzati sono più i titoli industriali che i bancari. È Mediolanum la più penalizzata tra le big di Piazza Affari al termine di una seduta nervosa per i listini continentali, in parte paralizzate dai timori sulla situazione greca e su quella spagnola e in parte proiettate sulle evoluzioni che potranno emergere dal G8 di Camp David. La forte esposizione sui titoli di Stato ha spinto di nuovo al ribasso il gruppo del risparmio gestito guidato da Ennio Doris, che ha perso in borsa oltre il 6%. Sotto pressione in tutta Europa il settore auto, su cui si sono concentrate vendite consistenti. A Milano Milano scivolano di oltre il 4%, sia Pirelli sia Fiat Industrial. Per quest'ultima è spuntata l'ipotesi di una quotazione a Wall Street attraverso una fusione con la sua stessa controllata americana, Case New Holland. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. L'Europa ha portato 180 miliardi di euro in più alle imprese italiane che esportano. In 20 anni l'export verso il vecchio continente è triplicato, passando da quasi 80 a 261 miliardi di euro, per un peso pari al 69,3% delle esportazioni italiane mondiali. Si attesta intorno ai 376 miliardi di euro il valore dei prodotti che l'Italia ha esportato nel mondo nel 2011, in crescita del 247% dal 1991 e del più 11,4% rispetto al 2010. E quanto emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano. E domenica 20 maggio la Serbia è chiamata alle elezioni presidenziali, legislative e amministrative. A sfidarsi al ballottaggio Boris Tadic del Partito Democratico, capo dello Stato uscente, e Tomislav Nikolic, leader del Partito Progressista, prima forza di opposizione del paese. Superato in sostanziale parità il primo turno del 6 maggio, i due si affrontano al ballottaggio per la terza volta dopo il 2004 e il 2008. Anche quest'anno i sondaggi prevedono la vittoria del filo europeista Tadic, al quale attribuiscono il 58% delle intenzioni di voto, dopo aver incassato il sostegno del terzo classificato al primo turno, il leader socialista Ivica Dacic. Terrorismo, pirateria, immigrazione e criminalità, questi i temi sul tavolo del G6 dei ministri dell'interno, i cui lavori si sono aperti venerdì a Monaco di Baviera. Al summit partecipano i responsabili dell'interno dei 6 maggiori paesi dell'Unione, Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. Solenne pranzo a Windsor per la regina Elisabetta, assenza importante quella della regina Sofia di Spagna, che ha annullato la sua visita a Londra. Ci sarebbero importanti assenti e invitati non graditi al pranzo della regina Elisabetta II in corso al castello di Windsor. Teste coronate provenienti da ogni parte del mondo prendono parte all'evento che è il preludio ai festeggiamenti del giubileo di diamante per i 60 anni del regno. La grande assente al pranzo è la regina Sofia di Spagna, che ha annullato la sua visita nella capitale britannica a causa dei disaccordi tra Londra e Madrid su Gibilterra. Non avrebbe infatti apprezzato l'annuncio della visita del principe Edward nell'enclave britannica, sulla quale la Spagna rivendica la sovranità. Fanno discutere invece le presenze del sovrano del Bahrain, paese teatro di violente repressioni, e il re dello Swaziland, ultimo monarca assoluto del continente africano. Giorgia Mennoni, Radio 24, Sole 24 Ore. In sempre più paesi è vietato fumare nei locali, ma c'è anche chi vorrebbe tornare indietro. Anche in Bulgaria, dal 1 di giugno, sarà vietato accendersi una sigaretta in bar, ristoranti e perfino allo stadio. Ma per un paese che si aggiunge al club degli stati no smoking, c'è non altro che vorrebbe uscirne. Esperanza Aguirre, presidente della Comunità di Madrid, ha chiesto al governo centrale di ripristinare le zone fumatori in casinò e sale bingo. La misura servirebbe a far riprendere il mercato delle sale da gioco, che in Spagna, anche a causa della crisi, ha perso 65 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo, ma anche a rimpinguare le casse dello Stato madrilegno, che su azzardo e scommesse incassa milioni di euro di tasse. Lucio Bondì, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si celebra la Giornata Internazionale dei Musei. È dal 1977 che l'ICOM, l'International Council of Museums, festeggia questa giornata. Il tema dell'edizione 2012 è Musei in un mondo che cambia, nuove sfide, nuove ispirazioni, cioè come i musei crescono e plasmano il proprio futuro. Il presidente di ICOM Italia, Alberto Garlandini, al microfono di Adriana Fracchi. Sono 35 anni che in tutto il mondo ICOM, che è l'Organizzazione Internazionale dei Musei, che riunisce, ricordiamoci sempre, 30.000 professionisti di tutto il mondo presenti in 130 paesi, si discute di musei oggi, in questo giorno, il 18 di maggio, ma diciamo così anche nel weekend. Ci sono un po' di giorni che sono dedicati alla discussione all'interno dei musei del rapporto tra i musei e questa società che sta cambiando in una maniera drammatica. I musei devono cambiare altrettanto per essere all'altezza della sfida. Si parla naturalmente delle nuove tecnologie, ma in realtà oggi il discorso è molto più ampio, riguarda proprio il ruolo dei musei, che non possono essere più soltanto considerati dei luoghi in cui si conserva fondamentalmente il passato, ma sono dei luoghi in cui si fa produzione di cultura, produzione e comunicazione di conoscenze, in cui ci si apre alle città, si discute col territorio, si cerca di rendere sempre più attrattivo il territorio. Questo è quello che vogliamo discutere e lo discutiamo dappertutto. In Italia poi dobbiamo anche tener conto della drammatica crisi che stiamo attraversando e sappiamo bene che nei prossimi anni l'offerta culturale delle nostre città cambierà. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Pietro Lacorte in regia, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.